abbia assenti. È nominato in sostituzione l'avvocato Pasquale Ruggiero, ai sensi dell'articolo 97, quarto comma. Oggi dovremo occuparci delle seguenti vicende, vicende del Rimez dai capi 59 a 66, vicende dell'Explorer dal 67 al 74 e vicende relative alla Smith Klein e Beecham 55-56. Nel pomeriggio poi ci occuperemo dei regali, degli aerei, delle vicende Mineracqua. Cominciamo dal Rimez. Per il Rimez vi è, a parere del pubblico ministero, un equivoco di fondo introdotto dall'imputato. Equivoco nel senso che l'imputato sostiene, lamentandosi, che secondo l'accusa il Rimez sarebbe un organismo inesistente, inoperante e destinato esclusivamente a raccogliere tangenti. Il parere del pubblico ministero è esattamente il contrario, e cioè che il Rimez sia stato nel corso del tempo un organismo realmente esistente, realmente operante, con delle proprie finalità. Il Rimez, ce lo dice l'imputato, ce lo dice anche il maresciallo Vasturzo all'udienza del 5 luglio del 1995, è un organismo che nasce agli inizi degli anni 80. Probabilmente all'inizio aveva una finalità prevalentemente culturale, lo dimostra anche la qualità delle prime attività compiute. Si tratta di convegni su Benedetto Croce. Ma poi il Rimez ha una storia, uno sviluppo che segue, direi parallelamente, lo sviluppo dell'attività politica di De Lorenzo. È senz'altro uno strumento nato per idea di De Lorenzo, anche se De Lorenzo non è mai figurato tra i componenti dei vari comitati direttivi, del comitato scientifico, né tra i soci fondatori, né è mai stato il segretario generale. È però la persona che ha ideato e ha promosso il Rimez. Lo dimostra per esempio la circostanza che i segretari del Rimez tranne la parentesi brevissima di Cilento, che era un collaboratore di Procaccini, i segretari del Rimez, e cioè Procaccini e Puttini, sono stati designati da De Lorenzo, nominati non si sa da chi, perché abbiamo visto non, neppure l'imputato ci ha detto in, come si è addivenuti formalmente alla nomina, però ci ha anche detto che bastava uno sguardo che egli rivolgeva ai componenti del comitato direttivo del Rimez per far capire qual era la sua volontà. E quindi l'influenza di De Lorenzo sul Rimez è stata totalizzante, potrei dire, sin dall'inizio. E dicevo, il Rimez ha seguito passo dopo passo l'evoluzione politica di De Lorenzo, per cui dalle iniziali attività di carattere meramente culturale si è passati ad una attività di carattere propagandistico, di carattere apparentemente scientifico, ma che in realtà serviva a, da organismo collaterale rispetto all'attività di De Lorenzo. Non a caso la maggior parte delle attività, parlo dei convegni, delle riunioni svolte dal Rimez, come emerge dalle dichiarazioni del verbalizzante Vastusso il 5 luglio, ma come emerge anche dalle dichiarazioni rese dall'imputato e dalla documentazione prodotta dall'imputato all'udienza del 25 novembre del 1996, dicevo, la maggior parte delle manifestazioni pubbliche del Rimez ha ad oggetto argomenti di carattere medico, sanitario, farmaceutico. E vedremo, ce l'ha detto De Lorenzo, ma risulta dalla documentazione, dallo stesso prodotto, che a volte vi sono delle sponsorizzazioni delle industrie farmaceutiche su queste attività diciamo paraculturali da parte del Rimez. Negli interrogatori, nell'esame che De Lorenzo ha reso sia al pubblico ministero sia soprattutto alla difesa, emergono espressioni roboanti, direi fumose. Si parla di grandi attività di carattere scientifico, culturale, ma in realtà la stessa produzione dell'imputato fa capire che ci si trova di fronte ad una attività di collateralismo rispetto alla figura politica di De Lorenzo. Ed allora nell'ottica dell'imputato c'è questa forma di ribellione rispetto ad una impostazione che non è l'impostazione della procura. L'imputato si è affannato a dimostrare attraverso la produzione di una serie di miti deviati eccetera che il Rimez era un organismo che produceva attività, che produceva nella sua ottica anche cultura. Come si alimenta il Rimez nella prospettazione di De Lorenzo? Intanto abbiamo due articolazioni, una a Napoli e una a Roma. Si alimenta attraverso il versamento di parte dell'assegno parlamentare destinato ai collaboratori, e una metà di questo assegno De Lorenzo lo ha nel corso del tempo destinato alle spese del Rimez. E poi l'imputato ha ammesso l'esistenza di finanziamenti da parte di enti pubblici e anche di finanziamenti da parte del Ministero dell'Ambiente e del Ministero della Sanità. A proposito del Ministero dell'Ambiente, vedrete la classica bugia resa dall'imputato, il quale dichiara che nel momento del finanziamento da parte del Ministero dell'Ambiente lui non era più ministro. Invece abbiamo la prova documentale, ma soprattutto anche le dichiarazioni del verbalizzante, la quale emerge che è proprio nel periodo della gestione De Lorenzo che vi è questa convenzione che alimenta il RIMEZ. Che cosa produce il RIMEZ oltre a questi convegni? Produce una serie di studi che vengono poi venduti ad imprese, soprattutto farmaceutiche, ma non solo farmaceutiche, e sono studi che nelle roboanti affermazioni dell'imputato vengono elaborate da eminenti professori universitari, studi che servono alle imprese per supportare la loro attività di carattere culturale, scientifica, eccetera. E altro elemento che l'imputato tende a sottolineare per allontanare il sospetto che il RIMEZ sia stato nel corso del tempo uno strumento per veicolare tangenti da parte degli imprenditori che avevano contatto col Ministero della Sanità. Dicevo, altro elemento importante che l'imputato tende a sottolineare è la circostanza che già prima del 1989 il RIMEZ aveva delle sponsorizzazioni da parte delle industrie farmaceutiche, sia in vista della organizzazione di convegni, riunioni pubbliche, eccetera, sia sotto il profilo di versamenti di somme di denaro. Questo, dice l'imputato, sta a significare che si tratta di versamenti compiuti dalle imprese indipendentemente da una mia presenza al Ministero della Sanità e quindi indipendentemente dalla possibilità che io avevo di incidere favorevolmente sulle imprese. Si tratta in sostanza, secondo l'imputato, di sponsorizzazioni e comunque di somme di denaro che nessuna attinenza hanno con la sua funzione ministeriale, con la sua funzione pubblica. Sono somme che vengono date o in relazione a rapporti di amicizia consolidata nel tempo da parte degli imprenditori o perché le imprese sono realmente interessate all'attività scientifica della scientifico-culturale del RIMEZ. E a questo proposito l'imputato ha citato alcuni convegni che vedono la sponsorizzazione della Zambelletti, della Glaxo, della Pierrel. Ha citato un convegno che vede la presenza di Aleotti, all'epoca presidente di Farmindustria. Ha citato, su questo poi soffermerò un attimo l'attenzione, ha citato un paio di convegni in cui tra l'altro, tra gli altri, era presente il professor Armido Rubino, presidente della società di pediatria, un nome sul quale poi soffermerò un attimo l'attenzione, e ha citato, dicevo, tutta una serie di convegni che dimostrerebbero l'assoluta inconsistenza della tesi accusatoria del legame tra d'azione e funzione del ministro e quindi della natura sostanzialmente corruttiva delle somme date dalla dalle imprese farmaceutiche nel corso del tempo. E per finire, a specifica domanda del pubblico ministero sulla eventuale presenza di Donato, domanda non casuale naturalmente, sulla presenza di Donato a qualche manifestazione del RIMEZ, nell'udienza del 21 ottobre 96 De Lorenzo ha escluso che sia venuto perché dice avevamo interessi diversi, se è venuto è venuto per curiosare, certamente non per partecipare, avevamo interessi politici diversi e spesso contrastanti. Poi vedremo se e in che misura tutte queste affermazioni dell'imputato si possono ritenere riscontrate. Qual è invece il giudizio, la testimonianza, possiamo dire, che su RIMEZ da Marone, sulla cui maggiore attendibilità rispetto a De Lorenzo già ci si è soffermati a lungo? Marone dice che il RIMEZ è una realtà che ha già trovato in essere quando intorno all'84 mi pare si è avvicinato a De Lorenzo e quando ha cominciato a collaborare con lui. Il RIMEZ è una struttura fiancheggiatrice di De Lorenzo, come strutture simili ve ne sono in tutti i partiti. Questo è stato anche uno dei cavalli di battaglia di De Lorenzo a proposito del RIMEZ. E bypassando l'attività, possiamo dire, ordinaria del RIMEZ e passando subito invece all'attività illecita, il RIMEZ viene indicato da De Lorenzo come una delle quattro possibili articolazioni delle tangenti che vengono pagate dagli imprenditori farmaceutici e non. La tesi di Marone può essere così riassunta: l'imprenditore ha uno scopo particolare, quello di ringraziare De Lorenzo o di ingraziarsi la benevolenza di De Lorenzo in vista di una determinata pratica specifica o in generale in vista di una serie di pratiche, e quindi raggiunge un accordo con De Lorenzo, un accordo di massima. L'accordo di massima deve poi essere in qualche modo concretizzato, ed ecco che entra in gioco il Marone, entra in gioco come esecutore materiale di questi accordi che sono stati stipulati a monte. E l'imprenditore in generale si presenta a Marone con un budget a disposizione, e se non intende dare questa somma tutta in contanti, la somma in contanti è la prima articolazione della d'azione, ecco che si apre un ventaglio di possibilità. Questo ventaglio di possibilità non viene ideato da Marone, ma un ventaglio che già sussiste. E in che cosa consiste questo ventaglio? Innanzitutto nel pagamento delle fatture, cosiddette fatture tipografiche. Abbiamo visto la volta precedente, prima vi è nel corso del tempo la Sograma e poi viene soppiantata come impresa dalla Simeone, però la Simeone subentra come impresa, ma come sistema è già in essere nel momento in cui arriva Marone. Quindi prima possibilità la Simeone, seconda possibilità il centro studi RIMEZ, terza possibilità l'opinione del Mezzogiorno. nell'articolazione concreta De Lorenzo ha un margine di autonomia, sempre però seguendo quei binari di carattere generale che gli sono stati dati da De Lorenzo. Questo margine di autonomia si estrinseca nella individuazione di volta in volta del canale attraverso il quale le dazioni vanno convogliate, e questo canale viene scelto da De Lorenzo, da Marone, in funzione e dell'ammontare del budget che l'impresa vuol mettere a disposizione e della credibilità dell'investimento. E cioè, se la somma è particolarmente rilevante, certamente non può essere scelta, ad esempio, una pubblicità sull'opinione del Mezzogiorno, tenuto conto che l'opinione del Mezzogiorno è un periodico di tiratura non eccessivamente rilevante, quindi non si giustificherebbe, non sarebbe credibile un investimento di grossa portata. Ed allora in questo caso all'opinione del Mezzogiorno si affianca eventualmente il Rimez, però anche per il Rimez ci deve essere una giustificazione. Il Rimez deve essere in grado di produrre, sia pure apparentemente, uno studio che, sia pure in astratto, abbia una qualche attinenza con l'attività svolta dall'impresa. E per quanto riguarda la tipografia, abbiamo visto la volta precedente in quali maniere si articolava questa dazione. Ed allora, compito meramente esecutivo da parte del Marone sulla base delle generiche indicazioni fornite da De Lorenzo e della quantificazione concreta fornita dall'imprenditore. Scopo di questa articolazione è consentire la cosiddetta fiscalizzazione della dazione, e cioè è l'impresa che ha interesse a non dare sempre una somma di denaro in contanti, perché magari o non ha la possibilità di attingere a fondi neri, o comunque preferisce anche nella tangente avere un ritorno, per così dire, di carattere fiscale. Ed allora, a distanza dell'impresa, Marone sceglie tra le varie articolazioni quella che più rende credibile la dazione. Questa possibilità di scelta, a parere del pubblico ministero, questo è un discorso che possiamo fare in generale, serve a far escludere la possibilità di configurare nelle ipotesi in cui i pagamenti avvengono attraverso questi canali paralleli la concussione, come pure gli imprenditori talvolta cercano di adombrare. Perché? Perché evidentemente nel momento in cui si soggiace ad una richiesta pressante da parte del pubblico ufficiale, in questo caso da parte del ministro, certamente l'impresa non ha una forza tale da imporre al contraddittore, quindi al ministro e a Marone per il ministro, una forza di imporre, dicevo, delle modalità concrete, modalità alternative al denaro che tutto sommato costituiscono un indubbio vantaggio per l'impresa. E questo è un argomento che il pubblico ministero intende sottolineare. Quindi l'imprenditore è vero che fa l'erogazione, è vero che paga la tangente al ministro, ma è anche vero che riesce a non creare fondi neri, quindi a non creare difficoltà di bilancio, ma riesce addirittura a documentare queste spese. E tutto questo rende certamente poco credibili gli imprenditori allorquando parlano di richieste pressanti, di richieste che non sono direttamente collegabili ad una attività del ministro o di Maroni. Quindi abbiamo detto diversificazione delle d'azioni, ma il centro studi Rimez quindi da un lato incassa queste somme di denaro, dall'altro ha delle uscite. Quali sono queste uscite? In parte lo ha detto l'imputato, lo ribadisce Marone: assegnazione di borse di studio, promozioni di convegni di carattere politico-culturale, pagamento poi chiaramente delle spese delle sedi e anche della segreteria politica di De Lorenzo a Roma, in quanto la sede del Rimez di Roma fungeva da segreteria politica di De Lorenzo. La caratteristica, una delle caratteristiche degli studi forniti dal Rimez era la non congruità della somma che veniva pagata. Con una definizione efficace, Marone dice: lo studio fornito dal Rimez è come un quadro, può valere miliardi, può valere nulla. Che significa? Significa evidentemente che tutto dipende non dal valore intrinseco dello studio, dipende dalla somma che l'imprenditore mette a disposizione, e quindi il prezzo dello studio non viene calcolato sulla base del valore dello studio stesso, come si dovrebbe normalmente fare, viene calcolato sulla base della somma che l'imprenditore mette a disposizione. È il discorso esattamente immerso rispetto a un discorso logico che vorrebbe prima, prioritaria, la fissazione del valore e poi la messa a disposizione dello studio. L'impresa raggiunge quindi l'accordo col ministro di massima, raggiunge con Marone e poi con le articolazioni ufficiali del Rimez, cioè Procaccini prima, Puttini dopo, l'accordo sullo studio, sulla natura dello studio. Per quanto riguarda il valore, esso viene piegato alle esigenze dell'impresa e alla somma che l'impresa ha messo a disposizione. Perché si arriva a questo? Dice Marone: perché molto spesso gli studi erano studi fasulli, e spiega anche in che senso erano studi fasulli. Si tratta a volte di studi costituiti da tesi di laurea o comunque da studi non forniti certamente per l'occasione, ma nella quasi totalità dei casi sono studi che già preesistono e che vengono utilizzati a richiesta dell'impresa, e ripeto, in funzione della somma messa a disposizione. Questo tutto sommato emerge anche da qualche passaggio delle dichiarazioni di De Lorenzo, cioè questa preesistenza degli studi. E conseguenza ulteriore, o meglio ancora, dimostrazione ulteriore di questa di questo valore posticcio dello studio, lo si ha attraverso due tipi di esempi. In alcuni casi lo stesso studio viene venduto a più imprese farmaceutiche, primo caso. In altri casi lo studio viene fornito addirittura dalle imprese farmaceutiche al RIMEZ e poi restituito. Nel primo caso, che cosa sta a dimostrare? Sta a dimostrare che lo studio non ha un valore obiettivo, una utilità concreta per l'impresa farmaceutica o non, perché se ciò fosse non sarebbe poi rivenduto ad altre imprese. Lo studio commissionato deve avere una sua originalità, una sua destinazione specifica alle esigenze della impresa, e non può essere certamente venduto più volte. Ma quel che è più sorprendente è che poi lo studio talvolta, abbiamo visto, viene venduto più volte ma con prezzi diversi, e questa è la dimostrazione pratica, obiettiva direi, di quello che va affermando Marone, e che cioè il valore era un valore non predeterminato ma scelto ad hoc. Abbiamo dei casi concreti in cui lo studio viene venduto con prezzi diversi, e questo sta a dimostrare che effettivamente è l'impresa che sceglie contrattualmente il valore da dare allo studio in funzione della somma che vuole mettere a disposizione. Ma il caso più clamoroso si ha nel momento in cui è l'impresa che fornisce lo studio al RIMEZ. Il RIMEZ dà una veste grafica, anzi più che una veste grafica, dà semplicemente il fascicolo, la copertina, se vogliamo, e lo rispedisce al mittente. È l'ipotesi concreta dell'Italfarmaco, due studi su tre dell'Italfarmaco sono forniti dalla stessa Italfarmaco. Questo quindi, tutto questo che cosa sta a significare? Sta a significare che la cosiddetta produzione scientifica del RIMEZ è una produzione del tutto inconsistente e sotto certi aspetti del tutto insussistente. È quella della vendita degli studi uno strumento, un mero strumento per giustificare la tangente che viene pagata dalle imprese. Questo sistema, dice Marone, non l'ho inventato io, è un sistema preesistente, tant'è che fu De Lorenzo che mi spiegò qual era tale sistema. Lui ha semplicemente rielaborato, rivitalizzato e riapplicato in maniera più scientifica forse all'attività del RIMEZ, perché certamente non si possono disconoscere indubbie doti organizzative al Marone. Per quanto riguarda la provenienza, dicevo, di questi studi, si tratta di, dice Marone, di vecchie tesi di laurea che poi venivano in un certo senso riciclate e vendute alle case farmaceutiche. A precisa domanda, Marone dice, si tratta di dazioni che le imprese facevano a De Lorenzo, e quindi non di mere erogazioni di carattere politico, semplicemente politico, di contributi al partito politico. E per quanto riguarda poi le altre forme di entrata da parte del RIMEX, abbiamo la precisa dichiarazione di Marone sulla provenienza sulla presenza di De Lorenzo al Ministero dell'Ambiente e al Ministero della Sanità durante il periodo in cui queste convenzioni sono state effettuate. Qual è lo scopo del RIMEX? Dicevo all'inizio della preoccupazione dell'imputato di far apparire il RIMEX come una entità viva. Allora noi diciamo che per quanto riguarda la produzione scientifica, cosiddetta produzione scientifica, cioè gli studi, era una produzione, abbiamo detto, del tutto inconsistente. Era semplicemente un modo per vendere fumo ottenendo somme di denaro. Viceversa, per quanto attiene l'altro aspetto, l'aspetto delle manifestazioni, effettivamente esistevano, nessuno lo ha mai messo in dubbio. Il problema è proprio questo. Dicevo all'inizio, il pubblico ministero ritiene che il RIMEX abbia effettivamente operato, ma perché è importante sottolineare questo aspetto? Dice Marone, a proposito del ruolo del RIMEX, che lo dice nell'udienza del 31 marzo del 95, De Lorenzo gli confida: ho bisogno di più tribune da cui farmi ascoltare. Organizziamo un convegno e parteciperà il ministro De Lorenzo. Il RIMEX era una di quelle tribune. Quindi da un lato entrate per operazioni del tutto inconsistenti o inesistenti, dall'altro promozione effettiva di convegni, incontri di studio, eccetera, ma questo nell'ottica di promuovere il Partito Liberale in generale, ma essenzialmente la figura del ministro De Lorenzo e prima ancora la figura dell'uomo politico De Lorenzo. Dicevamo all'inizio della presentazione della requisitoria, ma l'abbiamo detto per la verità già in sede di esposizione dei mezzi di prova, esposizione introduttiva, che non è rilevante lo scopo dell'azione, non è rilevante cioè il mezzo, il fine una persona intende raggiungere con la dazione: acquistare beni personali o far emergere ancora di più la propria personalità. Il RIMEX serve proprio a questo, non serve chiaramente ad un arricchimento personale dell'imputato. Nessuno ha mai detto che i soldi che il RIMEX incassa vendendo questi studi fasulli, fittizi, siano stati poi utilizzati dall'imputato per acquistare ville, parche, eccetera. Sono senz'altro somme che vengono utilizzate per far crescere il RIMEX, ma il RIMEX come struttura collaterale di De Lorenzo a che cosa serve? Serve a far crescere politicamente De Lorenzo, serve a promuovere la sua immagine. E ciò lo dimostra inequivocabilmente la stessa produzione documentale dell'imputato all'udienza del 25 novembre 1996. Se verificate tutte le locandine, i dépliant che l'imputato ha prodotto, direi che non c'è occasione in cui l'imputato non sia presente. Mi pare in un solo caso non è presente l'imputato, in data 30 aprile 1983, l'allegato 5, ma è presente la moglie, Marinella Daniele. Quindi voglio dire, il RIMEX è sì strumento di, diciamo, produzione culturale. Produzione culturale pura, direi, nella prima fase, nella primissima fase. Nella seconda fase invece abbiamo uno strumento che serve essenzialmente, non dico esclusivamente, ma essenzialmente a promuovere l'immagine politica di De Lorenzo. E questo poi ce lo dice, a parte il fatto che è intuitivo, ce lo dice, abbiamo visto, lo stesso Marone in quella espressione che ho poc'anzi letto. Dalle indagini della polizia giudiziaria che sono state sintetizzate nell'udienza del 5 luglio 95 dal maresciallo Vasturzo, emerge non solo questa serie di attività che è poi stata documentata dall'imputato, emerge un altro aspetto, anche questo sottolineato dall'imputato, e cioè l'esistenza di finanziamenti nel corso del tempo da parte di imprese. C'è un elenco di finanziamenti, 140 milioni circa dall'83 all'89 e nel periodo complessivo in questione dall'89 sono 461 milioni, oltre 461 milioni le entrate per finanziamenti da parte di imprese. Abbiamo detto i finanziamenti da parte dei ministeri, abbiamo finanziamenti da parte della Regione Campania. A questo proposito vorrei ancora una volta sottolineare la testimonianza, a suo tempo dissi inutile, oggi direi controproducente per l'imputato, di Amalia Ardias Cortese, a suo tempo assessore regionale, che non ricordava nulla del RIMEZ. Se leggete con attenzione il verbale, anche senza attenzione, il verbale 5 luglio del 1995, si dice chiaramente che queste erogazioni nel corso del tempo sono state fatte al RIMEZ dalla Regione Campania, erano finanziamenti provenienti dall'assessorato all'istruzione e alla cultura, retto all'epoca da Amelia Cortese Ardias, del medesimo partito. E per quanto riguarda questi finanziamenti da parte del Ministero, che poi formano oggetto di un separato procedimento, stanno a dimostrare sempre di più l'ingerenza di De Lorenzo nella vita del RIMEZ e la strumentalizzazione da parte di De Lorenzo dei poteri pubblici. Ci dice De Lorenzo: sono finanziamenti disposti, erogati dal centro studi, ma poi andiamo a vedere chi è che presiede quel centro studi, e se non è quel tale Armido Rubino, che tra i convegnisti almeno due volte presente al RIMEZ. Quindi voglio dire, in ogni momento il cerchio si chiude. E da questa documentazione prodotta dall'imputato emergono una serie di elementi. Abbiamo visto innanzitutto la presenza costante di De Lorenzo alle riunioni del RIMEZ, e questo è un modo obiettivo per dimostrare che la natura, la funzione, lo scopo essenziale del RIMEZ, almeno lo scopo che il RIMEZ ha assunto dopo magari una fase iniziale di mero centro culturale. E si nota, questo lo dice l'imputato, la domanda della difesa il 25 novembre 96, una presenza nel tempo delle imprese farmaceutiche. Vi sono dei convegni sponsorizzati dalle imprese farmaceutiche già prima dell'assunzione della carica ministeriale, vi sono, abbiamo detto, delle erogazioni da parte del RIMEZ. Che cosa dimostrerebbe questo? Secondo l'imputato, lo dicevo prima, che non c'è rapporto tra dazione, cioè non c'è finalità corruttiva nella dazione, sono somme che vengono date così a titolo di amicizia o comunque somme disinteressate. Leggiamo invece questi documenti e leggiamo parallelamente lo sviluppo della attività politica di De Lorenzo. Tra i presenti a questi convegni un paio di volte c'è Altissimo. Chi è Altissimo? Lo leggete nella scaletta degli interventi. È ministro della sanità e quindi possiamo dire che il versamento da parte delle imprese era un versamento del tutto gratuito, del tutto sganciato da qualunque finalità recondita. E poi non dimentichiamo, dall'83 all'86De Lorenzo è stato sottosegretario alla sanità. Dirà De Lorenzo: non ho avuto delega ai farmaci, quindi questa obiezione non dovrebbe avere alcun significato, perché il sottosegretario alla sanità senza delega ai farmaci non ha alcun potere. Ebbene, leggiamo invece quel che De Lorenzo dice a proposito di Maiatico Alberico. Maiatico Alberico, vicenda Le Petit, e lo dice all'udienza, e salto per un attimo non alla vicenda Le Petit ma a questo aspetto. Maiatico Alberico viene assunto alla Le Petit, secondo Marone, probabilmente per una qualche forma di intervento di De Lorenzo sulla Le Petit. De Lorenzo nega ogni forma di intervento. E a che cosa attribuisce questa assunzione? Dice: Maiatico è stato segretario particolare mio nel periodo in cui sono stato sottosegretario alla sanità e anche nel breve periodo in cui sono stato ministro dell'ambiente. Ebbene, nel periodo in cui, 83-86, sono stato sottosegretario alla sanità, Maiatico avrà sicuramente stretto rapporti con gli imprenditori farmaceutici, lo dice, ripeto, nell'udienza del 25 novembre 96, lo dice in più di un passaggio, per cui avendo stretto questi rapporti con le imprese farmaceutiche ha avuto la possibilità poi di chiedere di essere agevolato in questa assunzione. Allora, se è vero che un semplice segretario particolare del sottosegretario aveva questa capacità, questa possibilità di entrare in contatto con gli imprenditori farmaceutici, come si può negare che questo contatto non lo abbia avuto anche il sottosegretario alla sanità, benché non abbia avuto all'epoca la delega ai farmaci? Si tratta, è chiaro, non di dazioni dirette, parliamo dell'epoca, di dirette ad ottenere un immediato beneficio, sono quelle dazioni che nel corso del tempo servono a creare e a mantenere dei rapporti con da parte degli imprenditori con i vari funzionari, per avere comunque delle agevolazioni, delle non frapposizioni di ostacoli, avere comunque una via più liscia nel corso delle varie dell'espletamento delle varie pratiche. Quindi non c'è probabilmente né contestato un immediato do ut des, c'è l'instaurazione di rapporti. E d'altra parte l'esame di tutte le carte processuali ci dimostra in maniera... delle dazioni disinteressate. Ogni volta che l'imprenditore farmaceutico ha inteso fare una d'azione, ha sempre avuto di mira un obiettivo, sia pure non immediato. Non è un caso che gli imprenditori farmaceutici non vanno certamente a fare regali al ministro dei trasporti, ma sempre a persone in qualche modo legate al Ministero della Sanità. E a questo proposito, a proposito del tentativo degli imprenditori di comunque di imbrigliare tutti coloro che nel corso del tempo hanno avuto a che fare con il Ministero della Sanità, vorrei ricordare due episodi sui quali poi torneremo successivamente, e sono episodi dai quali emerge la presenza. Sono episodi dai quali emerge sempre la finalità, sia pur non immediatamente corruttiva, delle dazioni. I casi degli imprenditori Dompei e Pancera, che addirittura acquistano centinaia di copie di libri dell'allora sottosegretario alla sanità Garavaglia, centinaia di libri che poi mandano gratuitamente a tutta una serie di medici. Poi vedremo Dompei che cosa dichiara su questi libri, non sa neppure il titolo, neppure il contenuto. Questo che cosa significa? Che mai, ripeto, le imprese hanno fatto opera di beneficenza nel momento in cui si sono accostati a un sottosegretario, ad un ministro, ad un funzionario del Ministero della Sanità o del CIP, hanno sempre avuto di mira un vantaggio per la propria impresa. E per finire con questa panoramica generale, vorrei sottolineare l'ennesima bugia dell'imputato a specifica domanda del pubblico ministero a proposito dei convegni organizzati dal RIMES. Gli viene chiesto all'udienza del 21 ottobre 96, una richiesta non a caso, perché il pubblico ministero conosceva già la documentazione, se era mai intervenuto di Donato, e lo esclude in maniera precisa. Di Donato escludo che sia venuto, avevamo interessi diversi, se è venuto è venuto per curiosare, ma non certo per partecipare. Dimenticando poi quanto aveva affermato il 21 ottobre, l'imputato il 25 novembre, nel presentare la documentazione sulla effettiva attività del centro studi RIMES, produce l'allegato 17, un convegno del 29 novembre, Fusaro, Miseno, due miniere da salvare, e poi ancora scatta il piano per il recupero dei laghi Flegrei. Non solo tra i partecipanti vi è Di Donato, ma addirittura il convegno è, direi, cogestito dal RIMES, articolazione di De Lorenzo, e Socialismo Oggi, articolazione di Donato. Altro che diversità di vedute, lo vedremo poi, anzi lo abbiamo già visto a proposito della cogestione occulta di Canale 8 da parte dell'imputato di Donato e di Pomicini. Per quanto riguarda i singoli capi di imputazione, quindi dopo questa panoramica generale, vediamo la vicenda capi 59 e 60, la vicenda della Le Petit. Si contesta il pagamento di una fattura di 30 milioni pagata al RIMES e di una fattura di 30 milioni pagata a Simeone. Sul punto abbiamo una grossa divergenza tra le affermazioni di Marone, le affermazioni di Lorenzo e direi anche le affermazioni di Maiatico. Marone in sintesi parla di un accordo a monte, l'udienza del 31 marzo del 95, di un accordo a monte fra la Le Petit, nella persona evidentemente del Parenti che era l'amministratore delegato, e De Lorenzo. Sulla base di questo accordo di vertice, la pratica attuazione viene demandata a Maiatico Alberico, che è stato, abbiamo visto, il segretario particolare di De Lorenzo al momento in cui questo era sottosegretario alla sanità, ed è stato anche segretario particolare al Ministero dell'Ambiente durante il periodo in cui Marone era il capo della segreteria, e Maiatico era un esponente locale, colui che aveva i rapporti per la Le Petit con il Ministero della Sanità. E quindi, dice Marone, sulla base di questi accordi, il Maiatico, che già conosceva tutti i segreti della segreteria di De Lorenzo, già conosceva le articolazioni delle azioni, è venuto da me solamente per, non per avere consigli, suggerimenti, ma solo per dare attuazione concreta ad una idea che già aveva, ad una decisione che sostanzialmente già aveva preso. Maiatico sapeva già della possibilità delle fatture tipografiche, sapeva già della possibilità del RIMEZ. Ecco perché è venuto solamente, non per avere suggerimenti, ma anzi per suggerire e per concludere praticamente questa vicenda, lui che era a conoscenza di tutti i meccanismi. E Maiatico consegna a Marone il solito foglietto con le cosette note tecniche, con l'indicazione delle pratiche da mandare avanti. Sono pratiche sulle quali Marone non ha saputo fornire elementi concreti, cioè non ci ha detto quali pratiche erano e presso quali organismi in particolare, anche perché abbiamo visto le conoscenze di Marone sulle situazioni concrete sono a volte abbastanza generiche, proprio perché lui ha il compito non di promuovere le pratiche, ma di dare attuazione agli accordi altrui. Questa è il ruolo di Marone. Marone ne parla con De Lorenzo, e vi è da un lato quindi la fattura della Simeone, dall'altro la fattura del Rimez. Diversa invece la posizione di De Lorenzo. Oltre a questi 60 milioni di lire, poi, cioè oltre alle fatture della Simeone, abbiamo anche della Simeone e del Rimez, abbiamo anche 70 milioni di lire in contanti, quindi per un totale di 130 più 60, sono 200 milioni circa. C'è anche l'articolazione sull'opinione del Mezzogiorno. E un'articolazione, ripeto, scelta già dal Maiatico. De Lorenzo che cosa dice a questo proposito? Nega assolutamente la dazione in contanti dei 70 milioni, nega di aver saputo all'epoca del pagamento di fatture al Rimez e il pagamento di fattura Simeone, nega di conoscere Parenti, dice soltanto di aver di essere stato all'epoca a conoscenza delle inserzioni sull'Opinione del Mezzogiorno, semplicemente per aver visto la pubblicità effettuata. Si è trattato, dice Marone, dice De Lorenzo, di una iniziativa autonoma di Marone, non autorizzata. Evidentemente si è trattata di una iniziativa di Maroni per farsi bello dinanzi al Partito Liberale e a lui. Cioè Maroni si sarebbe attivato all'insaputa di De Lorenzo per farsi bello davanti a lui e davanti al Partito Liberale. Dice De Lorenzo, non è possibile che ci sia stato un accordo del genere tra Marone e Maiatico, perché l'accordo io l'avrei fatto direttamente con l'amministratore delegato. E poi conclude, se Maiatico avesse voluto chiedere un favore lo avrebbe chiesto a me e non a Marone. In effetti nel contrasto di posizioni tra De Lorenzo e Marone è vero quello che dice De Lorenzo. È vero cioè che l'accordo non sarebbe stato fatto tra Maiatico e Marone, ma è quello che dice esattamente Marone, che l'accordo non è stato fatto tra lui e Maiatico, l'accordo è stato fatto al vertice. Ed è vero anche che se Maiatico avesse voluto chiedere un favore non lo avrebbe chiesto per via mediata a Marone, attraverso Marone, avrebbe chiesto direttamente a De Lorenzo, ma è quello che esattamente quello che sostiene lo stesso Marone. L'incontro Maiatico-Marone è semplicemente un incontro di carattere operativo, l'accordo già c'è stato. E poi non ha senso quanto sostiene l'imputato, e cioè che Marone avrebbe agito di sua spontanea iniziativa per farsi bello dinanzi al partito e dinanzi a lui. Non ha senso nel momento in cui De Lorenzo stesso dice di questa situazione io non ho saputo nulla. Non ha senso perché se Marone voleva farsi bello dinanzi al partito e dinanzi a De Lorenzo non avrebbe certamente tenuto nascosto una d'azione così rilevante, tutto sommato, siamo nell'ordine di 200 milioni circa, avrebbe certamente comunicato a De Lorenzo. E quindi da questo contrasto emerge ancora una volta che Marone racconta il vero. Marone certamente è persona più credibile di De Lorenzo. Per quanto riguarda poi lo scopo dell'azione, c'è la solita cantilena dell'imputato che nessuna richiesta ha avuto da parte della Le Petit e nessuna richiesta e nessuna sollecitazione ha avanzato a favore di Le Petit. Questa impostazione è smentita, oltre che da Marone, dallo stesso Maiatico. Maiatico che naturalmente ha interesse a rappresentare in maniera leggermente diversa la modalità di approccio. Parla di una richiesta avanzatagli da Marone, ma non nasconde, anzi esplicita, la finalità poi di questa d'azione. Dice, io sono andato a chiedere un favore, a portare l'elenco delle imprese, dei farmaci che sono fermi e che dovevano essere movimentati. E che non sia vera la circostanza che l'imputato, come gli stesso ha affermato, non si è mosso per la Le Petit né a Roma né in Italia né nella CE eccetera, lo dimostra ancora una volta quel famoso verbale del 12 marzo 96 di Muzio. Il Muzio a foglio 46 e successivamente, a proposito dell'elenco che separatamente gli viene mostrato dal Vittoria e dal Brenna, elenco contenente le imprese che stanno a cuore a De Lorenzo, indica, guarda caso, proprio anche la Le Petit. Questo sia a domanda del pubblico ministero a foglio 46, sia a domanda della difesa a foglio 95. Vi è quindi una prova concreta della finalità corruttiva della d'azione. Passiamo ai capi 61 e 60, e quindi per concludere non c'è una erogazione finalizzata esclusivamente a sostenere il Partito Liberale, ma una dazione finalizzata in maniera esplicita alla corruzione. Capi 61 e 62. Vicende Bristol-Meyer. Bristol-Meyer, quindi vicende Porporati. Brevemente, Marone non conosce il Porporati, dice che ha avuto contatti con un esponente, un funzionario della Bristol, e parla del solito accordo tra De Lorenzo e la Bristol-Meyer, un accordo a monte. E, per quanto riguarda De Lorenzo, egli sostiene che c'è stata una richiesta di Porporati per verificare se il centro studi era in grado di fornire uno studio e quindi vi sarebbe stata un'iniziativa addirittura di Porporati. Questo lo dice in maniera testuale il 21 ottobre del 1996 al Pubblico Ministero. Non ha avuto sollecitazioni, non ha fatto sollecitazioni. Ma poi De Lorenzo smentisce se stesso, come vi sarebbe stata un'iniziativa addirittura di Porporati. Questo lo dice in maniera testuale il 21 ottobre del 1996 al Pubblico Ministero. Non ha avuto sollecitazioni, non ha fatto sollecitazioni. Ma poi De Lorenzo smentisce se stesso, come spesso avviene, quando viene sentito dalla difesa. Al Pubblico Ministero dice, ma è una situazione poco credibile per la verità, che è stato Porporati che aveva bisogno dello studio e si rivolge a lui. Nell'udienza del 25 novembre del 1996 ribalta, questa volta in maniera più credibile ritengo, ribalta i termini della questione e quindi racconta che è stato lui a chiedere a Porporati se la Bristol ha bisogno di uno studio. E di fronte a questa proposta il Porporati ha accettato. Ha raccontato anche dell'assunzione di alcune persone, in particolare un ingegnere. Qui è veramente risibile l'affermazione dell'imputato, un ingegnere del suo collegio elettorale, lo propone a Porporati. Porporati ne era proprio contento, ne fu molto contento perché corrispondeva proprio a quelle esigenze di carattere specialistico. Porporati sta proprio aspettando come manna dal cielo che De Lorenzo gli proponga questo industriale da impiegare. Ingegnere. Questo ingegnere da impiegare. E sull'esistenza di questo studio non mi sono sull'esistenza della fattura non mi sono dubbi, è una fattura dei 70 milioni più IVA che è stata prodotta. Vi sono dubbi invece concreti sulla dichiarazione dell'imputato, secondo la quale mai nessun intervento ha spiegato a favore della Bristol-Myers-Squibb, il che nella sua ottica escluderebbe la finalità corruttiva. Leggiamoci allora, per avere un riscontro negativo all'affermazione dell'imputato, l'interrogatorio di Boccia Antonio del 12 novembre del 1993. È uno di quegli interrogatori interessanti resi dal Boccia, il quale a proposito delle ditte che il Vittoria gli segnalò come ditte che erano vicine a De Lorenzo, sono ditte che interessavano De Lorenzo, elenca fra le altre proprio la Bristol. Questo, ripeto, a parere del Pubblico Ministero, benché non sia necessario, ma chiude completamente il cerchio sulla natura, sulla finalità non certamente elettorale o sganciata da qualunque obiettivo corruttivo della dazione di Porporale. E passiamo ai capi 63 e 64, vicenda Italfarmaco De Sanctis. Per quanto riguarda la Italfarmaco, abbiamo il versamento complessivo della somma di lire 100 milioni più IVA a fronte di tre fatture, la 5, la 7 e la 11 del 1992, emesse dal Rimez. Come si arriva a queste fatture, a questo rapporto? Ricordiamo che in questo caso, ma in tutti i casi, vi è una, prima della fattura, uno scambio di missive tra l'impresa e il Rimez, il gioco delle parti. Il Rimez offre degli studi e l'impresa si dimostra soddisfatta degli studi messi a disposizione. In certi casi è l'impresa che chiede se il Rimez per caso ha la possibilità di fornire uno studio, e il Rimez, guarda caso, ha lo studio che fa lo studio ad hoc proprio per l'impresa. Come si arriva quindi all'articolazione di questa vicenda? Secondo Marone, l'udienza del 31 marzo del 95, c'è stata una indicazione fattagli da De Lorenzo, che era amico del De Sanctis, e De Lorenzo gli ha anche indicato la cifra dei 100 milioni e l'articolazione concreta, cioè il Rimez. Quindi il ruolo di Marone è consistito solamente nel dare pratica attuazione e il far intervenire Puttini. Per quanto riguarda De Lorenzo, ammette aver fatto lui la proposta a De Sanctis per quanto riguarda l'acquisto di questi studi, e lo mette in contatto con Marone. Si tratta, come dirà lo stesso De Sanctis, di alcuni studi, tre studi, ma di questi tre studi due sono forniti dalla stessa Italfarmaco e vengono semplicemente rivestiti dal Rimez. De Lorenzo si scandalizza di fronte a questa prospettazione e dice di non sapere nulla, che era tutta colpa evidentemente di Marone. Per quanto riguarda poi la finalità, dice di sapere che De Sanctis è un esponente dell'area liberal democratica, tant'è che poi si presenta per il Partito Repubblicano, tant'è che poi finanzia anche il Partito Repubblicano, oltre che il Partito Liberale. Per quanto riguarda la posizione di De Sanctis, e questo per capire la finalità della sua d'azione, vediamo De Sanctis, lo si ricava dalle sue stesse dichiarazioni, è una persona che finanzia De Lorenzo, finanzia del Pennino, quindi liberale, finanzia del Pennino, repubblicano, finanzia Craxi, socialista, e finanzia Monsignor Angelini, che certo non si può dire dell'area liberal democratica. Questo sta a dimostrare ancora una volta che la finalità delle dazioni non è una finalità meramente di un mero sostegno di carattere politico, è sempre una dazione agganciata ad un obiettivo concreto. D'altra parte, se noi guardiamo il capo di imputazione, De Sanctis paga circa 4 miliardi e mezzo di tangenti complessive, non solo De Lorenzo, ma nell'ambito del CIP Bosio, Brenna, Ferretti, Fraiese, Vittoria, e 4 miliardi destinati al solo Poggiolini attraverso la moglie di Maria, che come risulta anche dagli atti è socia della Italfarmaco al 25% attraverso la società Sofip, quindi attraverso la Di Maria che il De Santis raggiunge, per così dire, Poggiolini. Ma la personalità di De Santis serve a colorare anche questa vicenda, lo si ricava anche dalla lettura delle sue dichiarazioni del 22 dicembre 1993, sono le dichiarazioni nelle quali parla dell'approccio con Craxi, si incontrano lui e Don Pé, vanno da Craxi, gli facemmo presente, dice, che volevamo dare un contributo al Partito Socialista, brigano per avere un appuntamento con Craxi, riescono ad ottenere e bramano di dare questo contributo a Craxi, come bramano di dare contributo, abbiamo visto, ai liberali, ai repubblicani e fino anche a Monsignor Angelini. Tutto questo, ripeto, sta ad indicare anche in questo caso che siamo fuori dello schema del mero finanziamento al partito e siamo in piena corruzione. Per quanto riguarda la vicenda di quei capi 65-66, ne abbiamo già parlato, la vicenda Umberto e Fontana, ne abbiamo già incidentemente parlato a proposito dei rapporti tra queste imprese e la Simeone. Veniamo ora alle vicende della Explorer. Dal 67 al 78. Oggi però li tratteremo fino al 74, perché le vicende di Facchetti SCL, quindi Testa Giacopinelli, sono inserite tra le vicende dell'Explorer come mezzo per la dazione, ma vanno inserite tra le vicende delle campagne IDS, quindi verranno trattate domani. Explorer. Sì, eh? Allora, per quanto riguarda la questione della Explorer, possiamo dire schematicamente che Explorer nasce come una esigenza del Partito Liberale in sede nazionale. Explorer è una società che viene incaricata dal Partito Liberale di fare non un sondaggio vero e proprio, ma una opera di promozione elettorale. Vi sono, cioè, una serie di contatti telefonici tra alcuni impiegati di questa società con persone potenzialmente vicine al Partito Liberale per estrazione culturale, per estrazione professionale. Viene fatto questo approccio non per sapere quindi per chi votano, ma per informarle le persone dei programmi che il Partito Liberale ha approntato sui vari temi. È una promozione senz'altro nuova, intelligente, meno costosa, ci diranno sia l'imputato sia Bastianini, rispetto alle classiche campagne elettorali fatte di manifesti, annunci televisivi, eccetera, perché si tratta di andare a raggiungere nelle case singole persone, ripeto, per informarle. Nello sviluppo di questo rapporto tra Explorer e il Partito Liberale avviene che a un certo punto c'è una sorta di ribellione di alcuni esponenti liberali, in quanto le città nelle quali andranno a presentarsi, non sono state inserite nel programma dei contatti, oppure sono state inserite ma con un numero di contatti ritenuti non soddisfacenti. Ecco perché dall'iniziale contratto di circa 600 milioni di lire si passa ad un contratto di oltre 1 miliardo e 200 milioni di lire. A campagna effettuata, comunque nel corso della campagna, la Explorer gestita da Ferrari e Totaro si accorge che il Partito Liberale non ha la possibilità di pagare integralmente. Vengono pagate 470 milioni circa del miliardo e due preventivato. E a questo punto bisogna trovare il modo per sopperire. La posizione dell'imputato è abbastanza semplice. Dice che si tratta di una iniziativa, quella di far pagare le fatture dell'Explorer ad una serie di imprese, assunta da Marone. Marone è amico di Altissimo, la campagna è stata promossa, ideata da Altissimo, quindi Marone, amico di Altissimo, per acquisire evidentemente meriti ulteriori nei confronti del Partito Liberale, questa volta in sede nazionale, offre la propria disponibilità ad Altissimo a risolvere la situazione. Quindi iniziativa verso il Partito Liberale. Per quanto riguarda il versante De Lorenzo, viene utilizzato questa volta non il solito canale degli imprenditori vicini all'imputato, viene utilizzato un canale alternativo, il canale Poggiolini. De Lorenzo fa un duplice richiamo ad un incontro che ha avuto a un certo punto con la Di Maria, incontro durante il quale la Di Maria avrebbe espresso dei sospetti di gelosia per una impiegata vicina a Poggiolini, e in quella circostanza si sarebbe dichiarata disponibile ad aiutare politicamente De Lorenzo attraverso erogazioni di imprese a lei vicine. Ed un incontro con Poggiolini, durante il quale Poggiolini avrebbe manifestato la stessa disponibilità. Utilizzando quindi questa parallela disponibilità di De Maria e di Poggiolini, De Lorenzo avrebbe chiesto un aiuto a Poggiolini, e Poggiolini avrebbe fatto in modo che la Di Maria fornisse a Marone l'elenco di imprese che sulla base di una scelta della Di Maria erano propense ad accollarsi pro quota la somma che il Partito Liberale Nazionale non era riuscito a pagare. Un riscontro, possiamo dire, obiettivo rispetto a questa individuazione delle imprese ci viene da Poggiolini, che il 25 ottobre del 93 e il 14 febbraio del 94 racconta di questa richiesta avanzatagli da De Lorenzo di scegliere di mettergli a disposizione delle imprese, e effettivamente racconta Poggiolini di averne parlato con la moglie, anche se poi ha negato un incontro tra la moglie e Marone, che invece viene raccontato da De Lorenzo. Tra le imprese Poggiolini ha ricordato la Formentoli, dal farmaco, la Chiesa. Marone è la persona che poi ha avuto un ruolo essenziale nella risoluzione di questa vicenda. Più credibilmente rispetto a De Lorenzo, perché non ha poteri certamente di carattere decisorio, ha ricordato che è stato De Lorenzo a proporre questa soluzione nel momento in cui Bastianini, della direzione del partito, gli aveva comunicato questo debito. Perché lo comunica a De Lorenzo? Perché De Lorenzo, quale ministro importante in quel momento del Partito Liberale, ha la possibilità di reperire attraverso i suoi canali dei fondi, delle somme da mettere a disposizione. D'altra parte, nell'ottica dell'epoca, il ministro non avrebbe dovuto utilizzare l'imprenditoria che aveva contatti con il ministero per le proprie finalità politiche, quindi non avrebbe dovuto tenere per sé le dazioni degli imprenditori, ma avrebbe dovuto dirottare le dazioni verso il partito liberale in sede nazionale. Questa è un'ottica fuorviante, ma tutto sommato coerente con l'impostazione dell'epoca, anche se conviene Marone, il partito sapeva che De Lorenzo aveva delle spese in sede locale, quindi probabilmente fingevano di non accorgersi che poi parte delle dazioni venivano trattenute da De Lorenzo. Quindi, di fronte a questa prospettazione di Bastianini, e questo è un passaggio importante poi per verificare l'esistenza o meno della corruzione, è De Lorenzo e non naturalmente Marone, che non ha possibilità, ripeto, non ha voce decisoria in questo caso, è De Lorenzo che dichiara la disponibilità propria a reperire somme. Questa disponibilità chiaramente non può essere ribaltata sulle imprese a lui vicine direttamente, si tratterebbe di sfruttare dei debitori nei confronti di De Lorenzo per finalità che non sono proprie di De Lorenzo, si tratterebbe di sfruttare a proprio danno, quindi dirottando verso il Partito Liberale Nazionale somme invece destinate a lui. Ed allora c'è il ricorso al canale Poggiolini, questo poi è molto importante anche per verificare i rapporti tra De Lorenzo e Poggiolini. C'è l'incontro con Poggiolini, durante il quale De Lorenzo chiede a Poggiolini la disponibilità a mettergli a disposizione delle imprese in grado di erogare queste somme di denaro, e vi è l'impegno di Poggiolini a contattare la De Maria. Vi è l'ulteriore passaggio, incontro De Maria Marone con l'elenco delle imprese vicine a De Maria che sono in grado di accollarsi, come dicevo, pro quota questa somma di denaro. Il ruolo di Marone quindi si esaurisce alla fine nel ricevere questa elencazione, nel contattare personalmente alcune delle imprese che già conosceva, e Marone fa riferimento alla Peire e pare anche a Chiesi, e poi nel mettere in contatto queste imprese con Totaro, meglio ancora nell'accreditare, per così dire, il Totaro, esponente dell'Explorer, presso questa imprese. Il discorso si chiude nel momento in cui Totaro si rivolge poi alle imprese che sono state già contattate da De Lorenzo e già notiziate da De Maria e emette queste fatture. La natura fittizia di queste fatture sostanzialmente non è stata negata da nessuno, tranne che da un'impresa, ma la Cianamid e anche la SIF in parte. Ma la natura fittizia non può essere messa in dubbio se si legge, oltre le dichiarazioni di De Lorenzo, oltre le dichiarazioni di Poggiolini e di Marone, anche le dichiarazioni di Totaro e Ferrari. Il Ferrari, Luigi, che pur si dichiara estraneo agli accordi, agli accordi che sarebbero intercorsi solamente tra Totaro e gli imprenditori, e prima tra Totaro e Marone, ha ricordato che tutte le fatture oggetto delle presenti imputazioni sono per operazioni inesistenti, anche quella della Cianamid, e lo dichiara espressamente nei suoi interrogatori, perché dice non ha mai sentito parlare dell'oggetto della fattura, quindi si tratta di operazione del tutto inesistente. Quanto al Totaro, lo stesso, gli interrogatori resi prima alla Guardia di Finanza e poi al Pubblico Ministero di Napoli ha ricordato i vari passaggi di carattere attuativo di questo accordo. Ha ricordato ad esempio, e questo è un fatto che ricorre spesso nel processo, l'abbiamo visto a proposito dell'Ital Farmaco, che in qualche caso sono state le stesse, anzi in tutti i casi praticamente, tranne che nell'ipotesi della testa, sono state le stesse imprese che hanno mandato i propri elaborati e la Explorer ha messo semplicemente la copertina, li ha rispediti al mittente fatturandoli. E ora vediamo in concreto se ci si trova di fronte a fatti penalmente rilevanti e sotto quale profilo. Per quanto riguarda il rapporto con l'Ital Farmaco, non ci soffermiamo naturalmente sulla personalità del De Santis che abbiamo già delineato. Qui l'Ital Farmaco abbiamo visto che ha rapporti diretti con Poggiolini per grosse dazioni. Anche qui abbiamo una finalità che non è probabilmente immediatamente corruttiva nei confronti di De Lorenzo. Non abbiamo quindi il dot d'esse. È il classico caso di dazione di carattere continuo. Poi lo affronteremo una volta per tutte questo aspetto della natura giuridica di queste dazioni. Dazioni di carattere continuo, possiamo dire preparatorio, una sorta di abbonamento. D'altra parte De Santis, se avesse voluto, avrebbe potuto evitare questo tipo di pagamento, se si volesse far credere che non c'è nessun nesso tra il suo pagamento e le finalità e l'attività del ministro. Un classico lampante caso di corruzione per un fatto specifico lo si ravvisa invece a proposito dei capi 69 e 70, vicende La Peyre. Qui abbiamo la contestazione del pagamento della somma di 200 milioni di lire da parte di La Peyre nella qualità di titolare della Lirca Sintelabo, di cui 100 milioni in contanti nelle mani di Maroni e 100 milioni sotto forma di pagamento di questa fattura. De Lorenzo ha negato di essere a conoscenza di questa vicenda, anche perché dice la Peyre è il genero di un collega universitario, tale professor Libonati, quindi non ci sarebbe stato bisogno di questo pagamento e comunque ci sarebbero stati dei contatti diretti. Ha negato in maniera esplicita qualunque suo interessamento per farmaci per prodotti della Lirca Sintelabo. Ma oltre che dalle dichiarazioni di Marone, l'imputato è smentito in maniera clamorosa dalle dichiarazioni di La Peyre, rese rispettivamente il 23 luglio ed il 15 settembre del 1993. Perché è smentito? È smentito sotto vari profili. Intanto La Peyre ci parla di un discorso di carattere programmatico che intervenne tra lui e il De Lorenzo nell'autunno del 1989, quindi poco dopo l'assunzione della carica ministeriale da parte dell'imputato. Un discorso di carattere programmatico nel quale La Peyre, oltre a parlare in generale dei problemi della sua azienda, gli aveva parlato in particolare di problemi connessi ad un farmaco, il MAG2, la cui pratica giaceva da tempo nei meandri del Ministero della Sanità. Quindi vi era uno specifico riferimento ad un farmaco di fronte al quale il De Lorenzo assicurò il suo impegno. E successivamente vi è l'incontro con Marone. l'incontro con Marone, durante il quale il Marone fa riferimento a questo farmaco. Questo che cosa sta ad indicare? Che c'è stato il contatto, quindi, tra De Lorenzo e Marone, contatto del quale si è parlato di questa pratica, altrimenti non si giustificherebbe la iniziativa di De Lorenzo di Marone di contattare il la Page. E nel corso di questi contatti la Page dice onestamente, ecco, una delle poche persone che onestamente forse ha riferito i fatti, non parla di una richiesta di Marone, offre lui spontaneamente la disponibilità per un versamento di 200 milioni di lire, collegandolo proprio a questa dazione. E la Beira è la stessa persona che poi, per il medesimo motivo, aveva contattato il professor Vittoria, che lo ha dirottato da Marone, ed è la stessa persona che poi fa un'erogazione di 100 milioni di lire a favore di 100 milioni di lire al Vittoria, e fa altre erogazioni a Balzano, Boccia, Ferretti, Muzio, Patanè e Varrone per un totale di 375 milioni di lire. Tra le modalità di concreta attuazione di questo accordo vi sono il versamento di una somma di denaro, i 100 milioni in contanti, e il pagamento di una fattura, quella di cui ci stiamo occupando, la fattura della Explorer. Vi è un incontro a tal fine con Marone per dare concretezza a questo impegno. Nell'interrogatorio del 15 settembre 1993 la Peir fa un diretto collegamento tra la dazione e il farmaco, cioè vi è un diretto collegamento tra il pagamento della somma di denaro e l'impegno di De Lorenzo di interessarsi presso le varie articolazioni ministeriali in favore di questa impresa. Manca cioè non vi è neanche in questo caso quindi uno sganciamento tra la dazione e l'impegno di carattere elettorale. A proposito delle elezioni, è significativo poi l'incontro che ha con Vittoria, allorquando Vittoria gli chiede ed ottiene la somma di lire 100 milioni, e significativamente Vittoria dice che questa somma serve a far fronte alle spese della campagna elettorale del Partito Repubblicano, del Partito Liberale a Napoli. Questa è un'ulteriore conferma dei rapporti tra Vittoria e De Lorenzo. Per quanto riguarda il capo 71 della rubrica, è contestato qui un'ipotesi di finanziamento illecito da parte della società SIFI di Benanti Giuseppe, in pagamento della somma di lire 50 milioni di lire. De Lorenzo ha negato di conoscere la SIFI, ha negato di conoscere Benanti, ma ha sostanzialmente confesso su questo reato, in quanto ha riconosciuto che si tratta di una di quelle imprese che rientrano nella lista Poggiolini De Lorenzo, e che la fittizietà della natura di questa fattura ci viene sostanzialmente